Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Ore 15:00:50 secondi, siamo puntualissimi con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Molti di voi stanno girando per le città in caccia degli ultimi regali di Natale, delle ultime idee. Abbiamo un sacco di idee per voi, ce le abbiamo. Poi dalla terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, con Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, ma anche voi tenetemi compagnia. Ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666 e il mio account di Twitter @MartaCagnola. L'hashtag, sempre per chiusa Twitter, il sabato del villaggio, lo dico sempre un po' lungo, usiamo le iniziali, cancelletto ISDV. Vi ricordo anche che c'è il nostro gioco all'interno dello spazio dei libri con Alessandra Tedesco, la seconda ora, una domanda a cui rispondere via SMS tratta dal Trivial Letterario. Anche questa volta saranno i primi due che risponderanno correttamente a portarsi a casa proprio la confezione del Trivial Letterario. Tutto questo nella seconda ora del sabato del villaggio. Ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme. Ci prepariamo al Natale, alle feste, alle ferie di Natale. Cosa andremo a vedere al cinema? Con i bambini sicuramente film d'animazione, sicuramente il nuovo film Disney, tra i doppiatori italiani, uno dei personaggi più amati della TV e non solo. Come di consueto, tutte le nuove uscite al cinema con Franco D'Assisi. Questa volta ci chiediamo anche: esiste ancora il cinepanettone? Poi i regali degli ultimi giorni, come vi dicevo, perché non tecnologici, tutti i consigli di Enrico Pagliarini. E subito andiamo a incontrare il personaggio e l'evento, conoscere l'evento di cui parlano tutti e di cui per forza parleranno tutti nel 2015. Concedetemi di lanciarlo con una vecchia ma sempre amatissima sigla. Che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose. Però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Per forza lui è l'uomo del momento, perché abbiamo saputo domenica scorsa, con un'attesa spasmodica in diretta, i nomi del prossimo Sanremo. Beh, non possiamo far altro che aspettare con ansia l'inizio del mese di febbraio, la metà di febbraio. Ci sarà il festival, ma già abbiamo tutte le anticipazioni e soprattutto abbiamo lui in persona al telefono. Buongiorno Carlo Conti. Eccomi qua, come stai? Io ogni volta emozionato, perché tu, cioè, Carlo Conti, no, ma approfitto poi anche per augurare il buon Natale a tutti e buon anno. Che meraviglia. Ci vuole perché l'occasione è giusta, il clima è quello giusto, ormai ci siamo, dai. Ma tu ce la farai a staccare la spina fino, che so, alla Befana, non pensare, certo, a Sanremo? Certo, poi sarà un Natale particolare perché è il primo Natale con un figlio a casa, quindi insomma Natale da papà molto particolare. Senti, io ti devo chiedere subito se hai letto le reazioni all'annuncio del cast, perché sai che ovviamente i social, Twitter quel pomeriggio lì è impazzito. Purtroppo non sono un grande navigatore, non ho neanche il profilo, anzi approfitto per dire che tutti i Carlo Conti che si spacciano per me non sono io, né su Twitter, né su Facebook, né su altre piattaforme. Quindi non lo so. Io ho fatto con la commissione, abbiamo cercato di fare al meglio, cercando di fare un cast variegato con tanti sapori. L'ho un po' paragonato a una Macedonia, ma una Macedonia di frutta fresca e magari di stagione, no? Perché è giusto che fosse così, non molto attuale, tutti i cantanti sulla cresta dell'onda, con qualche sorpresa e qualcosa che si aspetta con curiosità e attenzione. Sai che io mi aspettavo più vintage. Tutto sommato sembra che i più vintage siano Masini e Raff, quindi cinquantenni. Io mi aspettavo che andasse anche un po' indietro, no? Prepotentemente sulla cresta dell'onda. Certo. Molti si aspettavano, visto anche che tutto sommato uno dei miei successi televisivi è I migliori anni, e quindi ho attinto molto in un mio programma dalla musica, dalla memoria. Ecco, qui non ne ho sentito il bisogno, qui c'era tanta roba forte sulla cresta dell'onda, probabilmente qualche errore l'ho fatto, qualche grande assente c'è, però i posti sono quelli, anzi se ci fai caso ho aumentato da 16 a 20 i protagonisti di questo festival, un gesto d'amore e d'affetto nei confronti della musica italiana e di questi protagonisti. Quando domenica ho presentato i 20, se ci fai caso mi sono scusato non tanto con i 166 che sono rimasti fuori, ma con i 166, con i fan di questi 166 che non possono seguire i loro beniamini al festival. Una lista eterogenea, molti hanno detto come i Sanremo storici di Pippo, forse quelli erano poi anni, forse addirittura questa composizione così di canzoni ma anche di storie è ancora per noi è un ricordo alla Ravera, cioè i Sanremo storici. Sì, brava, sì esatto, con tanta roba in piena attività, cioè sono tutti nomi che per concerti, per vendita di dischi, sono in piena attività, più come nella tradizione qualche sorpresina, qualcosa che sei curioso e che aspetti, tutti si aspettano, sono curiosi di capire cosa canteranno grazie a Di Michele Platinette, oppure che cosa fanno su quel palco i soliti idioti, ma la storia del festival ha anche nelle canzoni ironiche, vedi il clarinetto di Arbore, vedi Elio e le storie tese, grandi maestri dell'ironia, della follia. Io ho fatto una ricerca, sono risalita fino al 1962 con Bramieri, che era stato forse il primo. Esatto. Però poi la grande tutti ci ricordiamo la grande sorpresa di Giorgio Faletti o anche Francesco Nuti, che ci stupirono. Certo, però ecco, quelli facevano un brano importante, sia Francesco con Sarà per te, mentre Faletti Signor Tenente erano un volto diverso da quello del quale eravamo abituati. Personaggi invece che hanno proposto brani ironici ce ne sono tantissimi, insomma il festival è pieno, l'esempio fra tutti l'ho fatto prima, Elio e le storie tese, sì che hanno rischiato di vincerlo. Sono curioso di sapere se hai sentito Fabio Fazio, se ti ha fatto i complimenti, se ha avuto qualche... mi ha mandato un messaggio da grande professionista, da grande gentiluomo qual è, proprio domenica, facendomi complimenti del cast, e poi anche in diretta l'ha fatto sabato la domenica sera, che tempo che fa, appunto, dicendo che secondo lui sarà un festival divertente e allegro, e questo ce la metterò tutta, perché insomma il compito del festival deve essere, soprattutto alla fine non ci dimentichiamo anche tutti quelli che commentano, che scrivono eccetera, che è una gara di canzoni, è una gara che dovrebbe avere un compito di regalare svago, di far stare di fronte al televisore tutta la famiglia italiana, di scherzare, giocare insieme, di scommettere scherzosamente in famiglia e tifare questo quel cantante, radunando la famiglia per una sera, per 5 sere di fronte alla TV. Tu, da DJ di lungo corso e da appassionato di musica, che ricordi hai di Sanremo? Perché poi spesso i DJ non lo amavano Sanremo, eh? Devo essere sincero, guarda, quando facevo il programmatore in radio, dei brani di Sanremo ne passavo pochissimi, le mie radio ne passavano pochissime, erano i grandi successi di Albano e Romina, Ricchi e Poveri, Cutugno, non passavo niente, o magari passavo il Vasco Rossi che arrivava ultimo con Vita Spericolata, o lo Zucchero di Donne che arrivava ultimo, no? Però erano pochi i banani che ancora oggi forse sarà così. Ecco, invece mi auguro che di questi 20 brani almeno ogni radio, a seconda del tipo di programmazione, ma almeno una decina e forse anche di più possa trasmetterli, quello sarebbe il successo più grande. Io ho fatto questa selezione un po' da vecchio programmatore della radio, sono ritornato al vecchio amore, al vecchio mestiere di direttore artistico anche di una semplice radio privata, cercando di selezionare canzoni che poi possano girare, possano essere trasmesse alla radio, e perché no, magari che possano essere fischiettate dagli italiani. E si sente che sei un radiofonico, si sente sempre quando ti si intervista, che questa è un marchio di qualità che non se ne va mai. Il grande amore non si scorda mai. Presentare Sanremo è un po' come una laurea, come per un attore vincere un Oscar, cioè è una consacrazione. Tu la senti così oppure... No, arriva un punto della carriera che secondo me non devo dimostrare niente, né a me stesso né ai telespettatori che mi dimostrano ogni giorno l'affetto più grande e più importante, quello quando conduco l'eredità e mi fanno scenare con loro. Quello è l'esame più grande, quando gli italiani ti fanno scenare e ti tengono a casa nel momento della riunione familiare alle 8, quando te li immagini prima, tutti lì che giocano alla ghigliottina. Esatto, quello è l'esame più importante, e quello è quello che superi ogni giorno, è più importante. Questo è un passaggio, un altro traguardo, un altro punto di arrivo, ma sai che poi non è un arrivo, è un traguardo, è il Gran Premio della montagna, no? Ce n'è uno, poi sai che ci sarà un po' di discesa, ma poi sai che devi continuare a pedalare, perché non ti devi fermare, perché ogni volta è un esame per te stesso e per gli altri, ma neanche un esame, è una prova, è un passaggio, ecco, un passaggio, così come a suo tempo è stata Domenica Hill, o è stata Miss Italia, o è stato Migliori Anni, o tale quale, o qualsiasi altra cosa che possa fare. Non sento la pressione della trasmissione televisiva o del programma. Il palco dell'Ariston lo conosco bene, ci ho fatto qualcosa, mi sembra aver fatto il calcolo, come 30 trasmissioni fra 50 canzonissime, Sanremo contro Sanremo, Sanremo si nasce, poi tutti i premi della TV, gli Oscar della TV, poi 50 canzonissime, quindi lo conosco bene. Poi mi verrà un po' di emozione, perché è un carrozzone e quei giorni lì sembra che tutti, come la finale dei mondiali, no? È come per un calciatore giocare la partita o la finale del campionato oppure la finale della Coppa del Mondo. Evidentemente la tensione mediatica è maggiore, ma alla fine è sempre una partita a calcio. Carlo, in questa trasmissione diamo sempre delle istruzioni per l'uso, quindi adesso voglio anche capire un po' le tappe di avvicinamento, come prepararci a Sanremo. Fine gennaio, ho sentito un 23 gennaio, forse la stampa comincerà a sentire le canzoni. Sì, quindi noi avrò un incontro proprio per voi a Milano, dove vi farò sentire i 20 pezzi. Noi cominceremo a organizzarci. È molto importante da non sottovalutare gli 8 delle nuove proposte, che sono già on air, perlomeno sulla piattaforma Rai, e si possono ascoltare lì, ma che quest'anno, altro gesto di fiducia e di attenzione nei confronti della musica italiana, non saranno relegati più come gli altri anni al mezzanotte e mezzo, l'una, quando tutti hanno già cantato, ma dalla seconda serata inizieranno proprio la puntata, inizierò con la sfida tra i giovani, quindi mi sembra un altro gesto di attenzione nei confronti di questi ragazzi. È una bella scommessa per gli ascolti, sì, molto, che vuol dire che ci punti. Questa è grossissima. E invece il cast, più o meno quando ci svelerai, quando ci dirai delle, sempre ma per questo avvicinamento? Piano arriveranno notizie, magari ogni tanto qualcosa a gennaio, qualche comunicato stampa o qualche sorpresina verrà fuori, insomma. Ci stiamo lavorando, cerchiamo di dare tanti, anche lì, qualche sorpresa, ovviamente, qualche bella risata, perché non guastano mai le risate, secondo me, dopo tanta musica. E poi quelli che io chiamo contorni, ma sono contorni importanti, perché la ciccia è buona, il cast, speriamo di avere contorni altrettanto validi. Carlo, devo dirti un'ultima cosa. Io ci siamo sentiti qualche settimana fa in Radio Tube e ti avevo detto che dovevi stare attento, voi toscani avreste dovuto stare attenti all'invasione dei Brianzoli. Vorrei farti notare che nel cast tu ne hai scelti di Brianzoli, perché c'è Francesco Mandelli da Osnago, c'è Gianluca Grignani da Correzzana, quindi sei cosciente che i toscani stanno per essere soppiantati dai Brianzoli? No, ma ne sono certo, e per fortuna ci sono un sacco di liguri, perché ora col presidente del Consiglio toscano, fiorentino, ogni cosa che è fiorentina è perché... Te l'hanno detto, Masini, Irene Grandi... Peccato che c'erano molto prima, no? C'erano molto prima e c'eravamo tutti molto prima. Comunque, voglio dire, la Toscana è una terra che sforna talenti, venga, come devo dire la Liguria, come la Brianza, come la Puglia anche, non ci dimentichiamo il grande successo dei pugliesi di questi ultimi anni. Credo che siano anche andamenti ciclici, no? Ogni tanto c'è un filone che arriva da una parte, un filone che arriva dall'altra. Straordinario. Mi dispiace, anzi, l'unica cosa che mi dispiace è che non c'è una bella rappresentanza come volevo, come avrei voluto, di musica napoletana. Beh, c'è Anna Tatangelo, che è un po' consorte. Quest'anno c'è una ragazza bravissima tra le nuove proposte che si chiama Rachele. C'è qualcosa, ma non come magari avrei voluto, ma d'altra parte non si può avere tutto. Beh, io aspetto veramente con ansia. Le carenze sono tante. No. È impossibile fare il cast perfetto che possa accontentare proprio tutti. Quali aspettative sono alte, Carlo? Accontentare il maggior numero di fruitori del festival, di fruitori di musica e soprattutto dei telespettatori. Allora, Carlo, ti chiedo solo un'ultimissima cosa. Qual è il tuo ricordo più bello di Sanremo? È un Sanremo in bianco e nero. Io ragazzino avevo qualcosa come 10 anni. Forse proprio il 71, quindi 10 anni, arriva un signore con la barba che canta 4 marzo 1943, quel signore è Lucio Dalla. Che bello, pensa Carlo che tra qualche anno qualche ragazzino potrà dire il mio ricordo di Sanremo era il 2015, c'era un signore che si chiamava Carlo Conti, pensa che roba. Sarebbe fantastico. Grazie Carlo per essere stato con noi, buona serata Carlo, a presto. Grazie a te, un abbraccio e buon Natale ancora a tutti voi. Auguri. Ciao. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme dopo il traffico che, io lo dico sempre, è particolarmente importante il sabato pomeriggio, perché tutti si stanno mettendo in auto o stanno girando in questi sabati per andare a cercare i regali di Natale, e poi un po' di consigli per gli acquisti mentali ve li daremo. Però tanti si preparano per andare al cinema o in questi giorni prima di Natale, ma soprattutto dopo Natale. Poi ascolteremo una panoramica delle nuove uscite cinematografiche con il nostro Franco D'Assisti, però io adesso vorrei dedicarmi ai miei film preferiti di Natale, che sono i film d'animazione, in particolare un film che a me è piaciuto tantissimo. Io di fronte a questi film ho 12 anni, anche meno, ce ne ho 6. Ecco qui il trailer di questo film di Natale che, vabbè, dico solo Disney. Ciao, io sono Baymax. Il mio scopo è guarire i malati e i feriti. In una scala da 1 a 10, come valuti il tuo dolore? Sto bene, davvero. Ti fa male se lo tocco? Tocca. Sto bene. Tu sei caduto? Davvero? In una scala da 1 a 10. In una scala. In una scala. In una scala da 1 a 10. È come abbracciare un bollente marshmallow. Un gruppo non identificato ha impedito una catastrofe. Siamo nel mirino di un super malvagio! Dai, via! Io non sono veloce. Già, me ne sono accorto! Dobbiamo catturare quel tizio. Il signor Kabuki vi ha aggrediti con dei robot volanti in miniatura. Non sono delle pernacchiette, perché c'è questo supereroe che è un supereroe coccoloso, abbraccevolissimissimo, che è una specie di pupazzone, ma in realtà è un robot che ti dice, ti fa un check-up medico, un robot medico, è uno stranissimo supereroe che accompagna un ragazzino dolcissimo che ha avuto un grosso dispiacere, ma che soprattutto ha una missione da compiere. Quando ci sono questi film come Big Hero 6, c'è sempre la cattiva abitudine di prendere dei doppiatori famosi che spesso non sono bravi, dei personaggi che non sono bravi. Questa volta invece a doppiare Baymax, il supereroe, che era un compito difficilissimo, è stato preso un personaggio popolarissimo, ma posso dire che è stato molto molto molto bravo. Vabbè, oltre ad essere un personaggio popolarissimo in televisione è anche un attore di formazione e di storia solidissima. Buon pomeriggio a Flavio Insinna. Flavio, buon pomeriggio a tutti. Siamo okay, anche pomeriggio. Ma hai fatto già il regalo di Natale sto posto così, per quello che hai detto. Sei davvero troppo buona. No, Flavio, diciamocelo. A volte sì, i film hanno bisogno della voce famosa, allora sì. Si prendono delle voci, non sempre sono bravi. Dai. Però questo lo diciamo tra me e te e ce lo diciamo da soli, non ci sente nessuno. E gli altri 24 milioni. Esatto, quello diciamo tra me e te. No, invece, com'è stata l'impresa? Perché vabbè, allora, tu sei al di là di affari tuoi, delle cose di Don Matteo, però no, insomma tu sei un attore di formazione solidissima, però il doppiaggio è un'altra disciplina ancora. Se fosse, come dire, il pentathlon è un'altra cosa ancora, è il fioretto. Io non l'ho mai fatto, ho solo ridoppiato me stesso nei film che ho fatto, quindi non è la stessa cosa. Mi sono affidato e devo dire, a me fa piacere sempre quando posso ringraziare le persone che incontro e nella vita e poi anche nel lavoro, che poi le due cose si sommano. C'è Massimiliano Manfredi, che ha una voce straordinaria nel nostro doppiaggio, la voce di Edward Norton, James Franco, insomma un attore pazzesco. Lui si è messo fisicamente a fianco a me, non è stato dietro al vetro della sala di doppiaggio, e l'abbiamo fatto tutto insieme, come dire, fidandomi io di lui e lui, come dire, spingendomi ad osare, perché c'era anche la difficoltà, essendo appunto rassicurante, coccoloso, ma un robottone, quindi non potevamo essere né troppo noiosi né troppo umani. E però è stato veramente bello, io mi ci sono speso, come faccio quando accetto una cosa di lavoro, tutto il giorno, sempre, cioè dedicandomi solo a quello e non facendo 28 cose insieme male, tu te ne faccio male una per volta. E stavolta mi sono dedicato al film della Disney. Certo, io sentivo Carlo, insomma, che saluto, sentivo intervistato da te e dici appunto il Festival di Sanremo. Onestamente, per me che sono cresciuto con gli Aristogatti, la Spada nella Roccia, Il Libro della Giungla, poter dire umilmente, dice, c'ero anch'io al 50, credo, 4esimo, 56esimo film d'animazione Disney, nel mio piccolo c'ero anch'io, insomma, quello va sopra il caminetto, il DVD per sempre, insomma, non me lo posso. Io una cosa dico sempre scherzando con Massimiliano Manfredi, perché loro hanno fatto prima, come dire, una prova per le scuole, no? Per vedere le reazioni dei bambini al film, con la sua voce, che è meravigliosa. Cioè, così tanto per dirvi una cosa, lui doppia Edward Norton nella 25esima ora, insomma, vabbè, insomma, un cavolo. Ho detto, guarda, secondo me stanno un paio di giorni nelle sale al cinema con la mia voce, poi lo ritirano e fanno uscire no. Senti Flavio, tu sei molto amato dai bambini, a quest'ora ci saranno molti genitori magari in macchina con i bimbi, ad affari tuoi tutte le sere leggi le letterine, che sono straordinarie, i pensierini. L'altra sera c'era uno che ti aveva disegnato la Gioconda, perché io seguo tutte le sere. Grazie. Che impressione ti fa essere così amato dai bimbi, dai ragazzi? E mi fa quell'effetto che dice il poeta, che se ci perdiamo il bambino che abbiamo dentro non lo recuperiamo più, e poi la vita si mette molto male. E vuol dire che se gli piace, guarda, ti posso dire uno dei più, cioè dei complimenti proprio che porto nel cuore, una bambina mi ha scritto: sei il cartone animato più divertente dopo Peppa Pig. No. Beh, dopo Peppa Pig è ovvio, non puoi superare Peppa Pig. Non posso superare, ma insomma essere il secondo, cioè voglio dire, ne ho messi in fila tantissimi. E adesso così parlando un po' sia ai bambini che tra noi un po' più grandi, credo che sia la fortuna di avere ancora un entusiasmo fanciullesco. Quando tu dici torno a 12 anni, a 6 anni, io tutte le sere quando sono lì ad affari tuoi, sì, più o meno faccio fatica a raggiungere i 7, gli 8 anni, ma è un entusiasmo vero, non faccio finta. Molto spesso me lo chiedono, ma tu fai finta di divertirti, può piacere, può non piacere, magari non mi sarò sviluppato particolarmente a livello cerebrale, la massa grigia sarà poco. Io però questa grande fortuna, è un privilegio, non lo dico in maniera retorica, ho il privilegio di fare la cosa che amo e mi diverte, e credo quello arrivi ai bambini, perché molto spesso mi disegnano come cartone animato, ma ancora prima, insomma, il film sta uscendo in queste ore, tra ieri e oggi, quindi già da tanto tempo, da anni, mi disegnano col mantello, chi mi vede più grande, il genio d'Aladino, o che ti posso dire, una volta a Peter Pan, insomma, sono in quel mondo lì con loro, e mi fa felice, anche perché questo mestiere prevede un entusiasmo sincero, altrimenti insomma, è finita. Sì. Tra l'altro, vabbè, adesso allora ti disegneranno come Baymax, un po' tondeggiante. Sì, noi scherziamo, anche ci scherzavamo anche a doppiaggio, dico, credo che abbiate fatto la scelta anche in base alla mia taglia, insomma, no. Perché un'altra volta avevo fatto qualche anno fa un incontro per un altro film d'animazione, ma non era Disney, ma era un insetto da doppiare, ho detto guardate, dico, proprio non mi ci ritrovo, insomma, io nel mio immaginario sono l'orso del Libro della Giungla. No, ma sì, ma no, ma bello Balù però. Ma no, ma guarda che la TV che ingrassa, ma è solo la TV, no, perché ci ha fregato, guarda, sì. A noi della mia taglia mediterranea ci ha fregato il televisore al plasma, se li facevano in verticale come il frigorifero, e lì era proprio una figata. Slanciava. Flavio, è vero che condurrai il Capodanno a Rai 1? Perché io l'ho letto ieri, ma non so mica se è vero. Non lo so neanche non io. Non lo sai neanche tu. Ah, quindi non lo sappiamo ancora. Sentire, guarda, siccome insomma mi hai fatto questo regalo, un'introduzione che neanche la notte degli Oscar, se poi ci risentiamo. Ci risentiamo, il 30, esatto, te lo il 27 che è sabato, così lo scopriamo, perché io ieri ho visto il promo, no? Io credo che sabato 27 qualche cosa qualcuno dovrebbe sapere. Te lo dovrà dire, perché solo per mettere i maglioni al limite nella valigia, perché a Courmayeur fa freddo, solo perché ti devi coprire. Bravissima, guarda, perché poi io sono uno di mare, quindi cioè, per me fare il trolley e la valigia con la roba invernale è sempre più complicato, insomma. Io sono per le partenze quelle estive, bermuda, magliette, una felpa per la sera, ciao. Questa partenza qui ci vuole le ciaspole, le cose, i guanti, io l'ho letto, ho detto sarà vero che sfida Gigi D'Alessio? Ma ti sento che sei sincero, Non sto facendo quelli che se la tirano, la schiava proprio, non si è capito ancora. Noi siamo avventurosi, che ci frega, facciamo le cose un po' così, mica abbiamo bisogno di prepararci. Ma era una roba che ci piaceva quando eravamo ragazzini, adesso non è che uno prende degli impegni in particolare. Per fortuna ho il privilegio di essere tra gli amici, tra le persone a cui Carlo vuole bene, Carlo Conti, quindi io se dovesse succedere il 23 lo chiamo e dico: Carlo, dimmi come si fa. Ah, certo. lo chiedo a lui, cioè non posso sbagliare, dico: lasciami le istruzioni in albergo e seguo la sua strada. Io queste vacanze, guarda che adesso sembra che lo dico per piaggeria, ma guarda, è vero, io mi leggo il tuo libro La macchina della felicità, me lo sono già preparato lì perché sono molto curiosa. È un romanzo d'amore, però io senza svelare il finale, cioè, altrimenti certo. Però ti posso dire, non è totalmente rassicurante e coccoloso come Baymax, ecco. Se volessimo dire, anche così, Baymax è una vera macchina della felicità e non l'ho fatta apposta, insomma, le due cose si sono inseguite, rincorse casualmente, la vita alle volte fa questi scherzi molto belli alle persone, a me in questo caso. La macchina della felicità è un romanzo d'amore, ma non è solo quello, però sarei bugiardo se ti dicessi vai tranquilla verso le ultime pagine, ecco. Quindi devo prepararmi perché sarà intenso. Guarda, mi ha fatto un grande complimento un giornalista che mi ha intervistato ieri a telefono, mi ha detto: porca miseria, dice, non pensavo, mai fregato, dice, a un certo momento non ho capito più dove andavi a parare, cioè quando sono arrivato alla fine mi hai fregato, che è detto da un giornalista a uno che scrittore non è, anche se insomma voglio dire, a casa nostra, insomma a casa della mia famiglia ci sono solo libri e dischi e qualche piccolo quadro, quindi insomma è materia che frequento da sempre, però l'ho preso come un grandissimo complimento. Anche a casa mia, Flavio, libri e dischi, e ai muri ho appeso le vecchie locandine del Festival di Sanremo, da me personalmente rubate, proprio vere, proprio quelle staccate da me rubate personalmente. Ah, ecco, io ho un paio di ma per mamma, quello che fa piacere, i passi, quelli che ti mettono al collo quando sono stato ospite, sempre grazie ad Affari Tuoi, nel 2007 era uno dei Sanremo di Pippo Baudo, e grazie insomma al successo di Affari Tuoi, alla popolarità di quel momento, insomma andai il sabato sera, serata finale, poi ho portato a mamma insomma il passo per testimoniare che bello veramente. Ma che avete capito perché piace a tutti, Flavinzi, sì, perché così, perché è dolce, perché Baymax, siamo dolce cosa, ma il segreto è, io figurati, ho unito le due cose, mio padre è un chirurgo, Gigi Proietti a scuola ci diceva, alla scuola di teatro, ragazzi qui non operiamo a cuore aperto e il gioco è fatto, cioè come dicono a Roma, non ce la tiriamo, facciamo una cosa normale, non salviamo il mondo, e ci mancherebbe altro che fossimo di quelli, sai, che rispondono lenti una parola ogni tanto. Ce n'è tanti. Flavio, ti chiedo un'ultima cosa, siccome noi diamo sempre consigli agli ascoltatori, tu già qualcosa mi hai detto, sì. Se tu allora in queste vacanze ci saranno tanti lì con i bimbi a casa a recuperare i vecchi DVD, un cartone animato, un film d'animazione che a te è rimasto nel cuore oltre a questo Big Hero 6 che andremo a vedere? Guarda, io veramente, a parte Big Hero 6, insomma con il ciccione biancone e bombolone, io la mia passione, sarò monotono, ma forse si lega anche un po' al nostro periodo storico, sociale, economico, se mettete il DVD del Libro della Giungla, vi ascoltate bene le parole dello Stretto Indispensabile, quando canta l'orso Balù, basta un po' che briciole lo Stretto Indispensabile, i due malanni puoi dimenticare, visto che ci hanno lasciato le briciole, se ce le facciamo possiamo bastare in allegria, con un sorriso, ritrovando anche lo spirito francescano, come nome del nostro Papa, di queste feste, secondo me rischiamo di farle anche bene, come dire, c'è il rischio di essere anche abbastanza felici senza sognare cose che poi non si possono realizzare e ci condanna all'infelicità. Secondo me anche i sogni li dobbiamo tarare. Se che non vuol dire non averli, per carità, io sono uno ribelle proprio di carattere, però se, secondo me io ogni tanto penso, cioè il 33 giri, pensa, e metto il 33 giri. Bello, bello, bello, bello, bravo Flavio. Grazie, grazie a Flavio Insinna, grazie per essere stato con noi. Allora noi aspettiamo quella risposta, dai, lo sapremo. Io, e tanto, insomma, ci risentiamo, il numero ce l'avete, io c'ho il posto, se volete sabato, esatto. Vi dico se ho messo le ce lo dici. Un bacio grande, grazie, grazie a Flavio Insinna. Grazie. Buon Natale. Il sabato del villaggio. Beh, dopo una mezz'ora con Carlo Conti prima e Flavio Insinna poi, beh, insomma, sempre il nostro sabato pomeriggio di Radio 24. Adesso passiamo un po' alla guida per orientarci negli acquisti mentali in questi giorni prima di Natale. Beh, insomma, importantissimo è il momento della tecnologia, uno dei protagonisti più amati del sabato del villaggio. Buon pomeriggio a Enrico Pagliarini. Buon pomeriggio, addirittura uno dei più amati, cioè le statistiche... Sono le statistiche, se non altro, di Twitter. Enrico, di cosa ci parli oggi? Dunque, questa settimana, allora, innanzitutto volevo lamentarmi del fatto che ho un raffreddore, così, nell'etere. Ah, cioè volevi lamentandoti. Sì, però vabbè, dichiarare anche che questa settimana... Insomma, hai una bella voce lo stesso, dai. Grazie, però è veramente è difficile. Ci sono cose più difficili, però questa è una delle cose. Dunque, allora, questa settimana si è fatto un gran parlare dei 10 comandamenti. Ah sì, benissimo. Alcuni... poi ne parleremo anche in RadioTube, sì. Alcuni forse non sanno nemmeno che sono 10 comandamenti. Allora, ho pensato in questi ultimi giorni, per preparare questo nostro appuntamento del sabato, ho detto, ma facciamo 10 idee regalo, 10 comandamenti, 10 idee regalo. Poi ho detto, ma... fermiamoci a 7. Hai fatto i 7 peccati capitali. Esatto, pure i sacramenti. Insomma, uno può scegliere anche nella religione i vari spirito numeri. Natalizio, siamo più buoni, dai, 7. Dunque, allora, alcuni dei nostri ascoltatori ricorderanno che una, due o tre cose di cui abbiamo parlato potrebbero essere una buona idea per il Natale. Sì. Allora, inizio da quella che secondo me è una delle degli strumenti più utili in questo periodo. Uno dei grandi problemi di tutti quelli che hanno smartphone, tablet, ma soprattutto smartphone, è che a volte rimaniamo a secco con la batteria. Eh sì. Questo è uno dei più grandi problemi. Ci sono un sacco di investimenti per cercare batterie più performanti, ma per adesso l'unica soluzione è o ci fermiamo e troviamo un attacco, ci attacchiamo da tutti, qualche parte. Un sacco di gente va nei bar, nei ristoranti e chiede per cortesia mi fate ricaricare il cellulare. Tra l'altro ci sono anche dei bar, dei ristoranti, degli aeroporti dove hanno fatto, o altri locali dove hanno fatto le postazioni per i banconi dove si può caricare. Compratevi, o meglio regalate, anche perché è un regalo che costa veramente pochi euro, una bella batteria supplementare. La trovate cercando... Power Bank, perché nei negozi a volte i nomi non sono tradotti in italiano, oppure Power Pack, oppure batteria supplementare. Uno chiede batteria supplementare, però su internet a volte nelle catalogazioni dei negozi online ci sono magari le Power Bank. Prezzi diversi e potenze diverse. Partiamo da 10 euro, 20, 15 euro, 20 euro, si compra già una cosa assolutamente tanto. Il motivo per cui uno deve portarsi dietro, magari non proprio in tasca, ma ci sono anche quelle piccoline che stanno in tasca, però magari nello zainetto, nella borsa, nella tasca interna del giubbotto, eccetera, eccetera, è arrivare alla fine della giornata. E ricordarsi di portarla in tasca carica. Ah, certo, sì. No. Allora, un consiglio, cercate quelle, perché sono molto più comode rispetto a quelle che hanno il cavo supplementare, quelle che hanno il cavo integrato. Perfetto. Perché poi succede che vi dimenticate il cavo e non riuscite a caricare perché vi manca il cavo. Seconda idea, spesso vado sui mezzi pubblici e mi ritrovo a fianco a uno che ha delle cuffiette, allora, c'è la categoria di quelli che hanno le mega cuffie, magari di moda, e quelli li lasciamo da parte per ascoltare la musica, oppure quelli che hanno le cuffiette. Oggi sono un sacco di persone che ascoltano sullo smartphone o su un lettore MP3 la musica o i podcast di Radio 24. Certo. Io consiglio, e questo è un altro bel regalo, di regalare una cuffia in ear, anche in questo caso devo usare una parola inglese che non si traduce molto, cioè, nell'orecchio. Nell'orecchio, allora, sono caratterizzate da un piccolo bulbo di gomma che si infila nell'orecchio e serve sostanzialmente per isolarci dai rumori esterni. Perché e per isolare gli esterni dai rumori, no? Esattamente. Così, per non disturbare con la nostra musica. Tu ascolti la tua musica e io mi ascolto la metropolitana che va, no? Oppure mi ascolto la mia musica senza che tu mi disturbi. Sono molto utili, si sente molto meglio. E devo dire che con, ecco, magari non 15-20 euro, però già con una cinquantina di euro si comprano degli ottimi prodotti. Magari, per non sbagliare, prendete un prodotto di marca, anche se ci sono alcune marche specializzate, però se uno va sulle grandi marche non sbaglia. Ed è un bel regalo, mi sembra, anche perché sta in una scatoletta piccola. Ah, certo. Si fa un pacchettino. Poi, magari poi uno pensa che sia un gioiello. Idea numero 3. Numero 3. Smart band, cioè braccialetti, ne abbiamo parlato recentemente, sì. Braccialetti che misurano le nostre attività fisiche, molto consigliato per chi si muove poco. Probabilmente se uno si muove molto è già entrato nel trip del quantified self, questa mania. Quante parole inglesi. Però questo è il mondo così. Sì. Noi mutuiamo tutto dagli Stati Uniti che ci invadono con questi prodotti, ma soprattutto con i nomi, perché poi i prodotti non arrivano. Sono molto semplici, si accoppiano allo smartphone o anche solo al computer, quindi uno può avere questo braccialetto che ci misura l'attività fisica quotidiana. Dico consigliato per chi si muove poco, perché così lo stimoliamo a muoversi. Perché se io regalo ad uno che si muove poco un bel braccialetto che misura l'attività fisica, alcuni hanno anche la vibrazione che ci dice: oh, guarda che ti devi muovere perché da un po' troppo tempo che non ti muovi, potrebbe essere una buona idea. Anche qui i prezzi sono abbastanza popolari, possiamo comprare, diciamo che stiamo nell'ordine delle tra i 50 e i 100, poi per cose anche molto belle oppure tecnologicamente più avanzati ci spostiamo oltre, però sostanzialmente sotto i 100 troviamo delle cose molto molto belle. Numero 4. Altro pacchettino piccolino, un bello speaker Bluetooth, al contrario della cuffietta che serve la per non disturbare ascoltarselo da solo, invece speaker Bluetooth per ascoltarlo a volume più alto. Questo è facilissimo, un altoparlante che si collega Bluetooth con il nostro tablet e il nostro smartphone, quindi non aggiungo altro perché è molto semplice, troviamo prodotti molto piccolini a 30-40 euro. Sai perché lo uso io? Quando faccio le pulizie in casa. Esatto. Cioè metto la musica sul tablet, con il mio servizio preferito di musica in streaming, sì. Metto lo speaker Bluetooth e lo porto da una stanza all'altra. Quando faccio le pulizie da casalinga. Lo potresti appendere anche alla tasca. Straordinario. Numero 5. Allora, se il vostro destinatario del regalo è un lettore accanito, però direi solo in quel caso, regalate un bel ebook reader. Ormai sono prodotti stabili, c'è stato un consolidamento del mercato, sostanzialmente ci sono tre grandi marche, Kindle di Amazon, famosissimo, Kobo, che in Italia è diffuso da Mondadori, comunque anche Kobo è una grande piattaforma concorrente di Amazon, e il Tolino, mi piace il nome. tedesco però, che in Italia è stato portato da IBS, Internet Bookshop, un grande negozio di libri online. Quindi se uno è un grande lettore, direi che un buon sostituto del libro può essere l'ebook reader. Dici un grande lettore perché altrimenti si legge sul tablet. Sì, si legge sul tablet, oppure apposta. Diciamo, se io leggo tre libri all'anno, posso anche comprare il libro. Ma magari regali l'ebook reader e convinci la persona a leggere un po' di più. È un regalo che anche in questo caso non costa una follia, stiamo almeno per i modelli base stiamo sotto i 100 euro sicuri, ci sono alcuni modelli più economici che costano anche 60 euro, una roba del genere. Comunque con 100 euro tutte e tre queste marche offrono il prodotto base senza grossi problemi. Numero 6. Ho fatto il conto. O faccio scambio. Prima, no, numero 6. No, numero 6. Dedichiamo qualche minuto in più perché parliamo di droni. Ah, però questo, la grande moda. Questo Natale sarà un po' il Natale della drone mania. Allora, dividiamo il mondo in due parti. I droni professionali, quelli che fanno un sacco di cose, devono essere guidati da professionisti, bisogna avere una certificazione, l'autorizzazione dell'ENAC, costano un sacco di soldi, oppure i droni giocattolo. Però attenzione, faccio subito un avviso ai naviganti, anche i droni giocattolo, che sono macchine piccole, dei piccoli elicotterini con 4 pale, 6 pale, cose molto, molto limitate, non sono in realtà dei giocattoli, sono dei modellini, e quindi vanno utilizzati con sale in zucca. Cioè uno non deve andare in uno spazio con tante persone, al di là del fatto che è proprio vietato. Però diciamo che se uno insomma è in un luogo non presidiato da forze dell'ordine, non è che lo beccano e lo multano, però può essere pericoloso. È vero che ci sono dei giocattolini proprio piccolini, ne cito uno perché effettivamente Parrot in questo settore è stata la prima a introdurre dei piccoli droni giocattolo. Costa il Rolling Spider, che è proprio piccolino, che effettivamente vedendolo si capisce che è un giocattolo, costa 99 euro, però diciamo se ti arriva addosso, quindi prudenza. Sono una idea simpatica, però non regalateli a un bambino un po' troppo agitato. Ecco, insomma, un giocattolo da usare con attenzione, con attenzione, con la supervisione degli adulti. Però lo diciamo, e lo diciamo anche per avvisare i genitori, che insomma forse non sempre è un regalo adatto per tutti. Ultimo consiglio, e poi abbiamo un'app che non è un regalo ma potrebbe anche diventare un regalo. L'ultimo consiglio è un prodotto immateriale. Questo Natale, adesso non dico che passerà la storia perché siamo un po' esagerati, però sto vedendo che ci sono molti servizi online di cui abbiamo parlato, di cui si parla spesso, che sono, l'hai citato tu prima, servizio di streaming musicale. Oggi ci sono un sacco di persone che sono o abbonate o che ascoltano questi servizi in modo gratuito, oppure ci sono anche alcuni servizi anche in Italia di servizi di streaming video. Certo. Citiamo Infinity, Sky Go, Chili, che offrono film ma anche serie televisive. E poi il 2015 potrebbe essere l'anno di Netflix. Esattamente. Ne parleremo. Molti dicono che arriverà, chi lo sa se sarà vero. Comunque molti si sono preparati con servizi alternativi. Per quasi tutti questi servizi ci sono le, cito un altro nome, gift cards. Ah. Le carte regalo, quindi ti regalo il credito. Se magari non sei abbonato, potresti diventare abbonato e magari ti regalo 3 mesi. Anche Sky quest'anno ha fatto il pacchettino, tu regali dei mesi di Sky online. Sì, è una bella idea fare un regalo con una gift card, e chi lo riceve poi si amministra. Esatto, in questo caso il pacchettino credito. È effettivamente piccolo, perché stiamo parlando piccolo. Della dimensione di una carta di credito. Se poi uno vuol fare la scatolina attorno, e qui i prezzi variano a seconda, però stiamo nell'ordine dei 30, 40, 50. Ma ognuno può scegliere quanto regalare. La taglia del... L'app da suggerire? Dunque, purtroppo non c'è molta neve quest'anno, però viste le festività molti sciatori si avvicineranno alle montagne per sciare. Allora, ho fatto un po' di ricerche in questi giorni sulle app per gli sciatori. Effettivamente se uno scrive neve, se uno scrive ski o sci, trova un sacco di cose, le più disparate. Una delle migliori app che è segnalata dai professionisti, quindi io mi fido anche dei professionisti, è Navionix Ski. Navionix è un'azienda italiana che è diffusa in tutto il mondo ed è specializzata nella nautica, ma si è specializzata anche nelle mappe in altri ambienti oltre a quello della nautica. La montagna è uno di questi ambienti, e c'è una bellissima applicazione con la quale si possono vedere un sacco di... ci sono 32.000 km di piste in tutto il mondo. Poi uno può vedere dove è stato, quanti chilometri ha fatto, eccetera, eccetera. Molto bellina. Navionix Ski. Grazie Enrico. Buon ci Natale. Ritroviamo il 27 in esatto. diretta con il Sabato del Villaggio. Allora per il momento buon Natale. Buon Natale anche a voi. Il Sabato del Villaggio. Rieccoci insieme dopo Pagliarini malato che si è lamentato per il raffreddore. Vabbè, no, è il momento di informarci su tutte le nuove uscite del weekend al cinema, tante nel weekend prenatalizio, perché poi sono quelli che ci accompagneranno durante tutte le ferie. Ci aggiorna come sempre Franco D'Assisti. Buonasera Franco. Buonasera a tutti, ciao Marta. Cosa andiamo a vedere questo fine settimana? Insomma, è una domanda molto molto difficile. Se ho mezz'ora di tempo, un'ora ce l'ho tra poco, quindi non è un problema. No, è perché, come hai detto giustamente tu, è la volatona natalizia, e si compone definitivamente quello che è il panel dei film che vedremo da qui a Natale, perché a Capodanno ne escono 5 nuovi. Quindi un po' una cosa abbastanza inconsueta questa, ma il 1 gennaio ci sono 5 nuovi film in sala dal 1 gennaio, tra l'altro teatro, anche cose come Big Eyes di Tim Burton, insomma. A me è per piaciuto cui, tanto tanto. Per cui c'è sicuramente da discutere. Però, insomma, Natale Santo Stefano ce li facciamo con i film che sono usciti questo weekend e con quelli che c'erano già prima. Fra le novità, direi che io voglio segnalare innanzitutto Jimmy Saul di Ken Loach, che, cioè, se mi chiedi qual è il mio preferito, insomma, il tuo preferito quest'anno, manderei a vedere a Natale Jimmy Saul di Ken Loach, perché l'ho trovata una storia straordinaria, tra l'altro girata benissimo. Ken Loach sembra avere una mano sempre più lieve nel raccontare queste storie che mischiano il suo impegno politico, di cui sappiamo, ma anche con un substrato popolare sentimentale. Qui la storia di una piccola sala da ballo un po' sgarrupata della provincia irlandese degli anni 20, che torna a vivere e diventa il cuore di una comunità, se non che però proprietari terrieri e chiesa non vogliono che il ballo diventi un codice di comunicazione e ci si mettono di mezzo. È una storia vera, tra l'altro, quella che ha scelto Ken Loach, ed è recitato in una maniera straordinaria, il che ancora una volta ci fa riflettere sul livello degli attori inglesi, che sono forse i migliori del mondo. Poi io adoro Ken Loach quando parla di sentimenti, quando parla d'amore. Lui è My Name is Joe, per esempio, era stato un mio capolavoro. Quando si distrae con la politica, no, deve parlare d'amore. Ma qui c'è dentro tutto, però lo fa bene, ecco, non fa pesare troppo la politica. Io trovo che sia un film veramente molto natalizio in questo senso. Bello, bello, mi piace. Io ho amato molto L'amore bugiardo, cioè Gone Girl. Beh, è un altro film, è un altro filmone, insomma. David Fincher sbaglia difficilmente film e L'amore bugiardo è un altro di quei capolavori. Tra l'altro anche qui Ben Affleck aveva cominciato un percorso attoriale, insomma, così, non è che fosse proprio il miglior attore del mondo quando aveva cominciato. Si è negli ultimi anni, e come regista e come attore, è maturato, e qui siamo di fronte a un film che, tra l'altro, ti dà delle suggestioni anche diverse, anche ambigue in certi momenti, perché pensi di vedere un thriller dove il tema è che fine avrà fatto questa donna. In realtà il tema è cosa siamo noi nel momento in cui qualcosa di noi scompare, siamo di fronte a una reazione, diciamo, della giustizia, in questo caso più grande di noi. E quindi un film anche questo, di quelli che ti rivoltano dentro, poco natalizio questo senso, però ben venga anche questo tipo di proposta. Beh, io l'ho consigliato solo ai grandi, ovviamente. Assolutamente. E invece con i ragazzi, bello andare al cinema durante le vacanze di Natale. Assolutamente, ma poi abbiamo anche il film quest'anno, e peraltro è italiano, cioè una cosa da non crederci. Gabriele Salvatores dirige Il ragazzo invisibile, un film per adolescenti di supereroi italiano. È una roba che forse non si era mai vista. Tra l'altro approfitto per dire che Gabriele sarà nostro ospite fra poco alla Rosa Purpurea e ci racconterà proprio tutta la lavorazione di questo film, che è un film anche con un budget importante per il cinema italiano, 8 milioni di euro, con effetti speciali artigianali italiani, ma artigianali nel senso bello, come una volta si faceva nei film di Dario Argento, cioè fatti molto molto bene. Ed è una storia sull'invisibilità, che diventa l'unico modo per essere davvero visibili, che è un po' una croce delizia di tanti ragazzini adolescenti di oggi. Però è un film che secondo me parla molto anche ai loro genitori, quindi è un film assolutamente da famiglia. Io lo consiglierei ad esempio ai ragazzini delle scuole medie. Assolutamente, secondo è il loro target. L'età giusta, medie. Perché loro non ci sono ancora arrivati, ci stanno per arrivare a quel punto lì. E poi va avanti fino ai 13-14 anni, diciamo, come tipo di idea. Però veramente un film che sposa il tentativo di fare un cinema popolare con il tentativo anche però di restare Gabriele Salvatores e di narrare in maniera autorale, come lui sa fare. È straordinario. Vorrei concludere, abbiamo parlato di Big Hero 6, io di fronte a questi film io ho 6 anni subito, io divento bambina subito. Assolutamente, ma tanto questi ormai sono film che parlano a tutti, parlano all'anima. Quello che è successo negli ultimi anni in casa Disney ha dell'eccezionale, cioè per la capacità di riuscire sempre a coinvolgere tutto il nucleo familiare, ma riuscendo a dare ad ognuno quello che serve e quello che vuole. Non so quello che è capitato a te, ma quando io ho visto Up, per esempio, ho avuto delle emozioni che non erano le stesse che poteva avere un bambino, certo, ma che erano le emozioni di un bambino. E quindi questo succede anche un po' in questo, che è il film più manga, se vogliamo, della storia della Disney, perché il tentativo è proprio quello di inserire quasi il genere dentro la narrazione animata disneyana, no? Film molto molto divertente e anche molto formativo. Anche qui secondo me è un film da famiglie nel loro intero. Sì, da guardare con da bambini. Guardare con i bambini, assolutamente. Franco, l'appuntamento con te è più tardi, dopo il giro delle 18. Dopo il giro delle 18, un'ora insieme per parlare di tutti i film di Natale. Tra l'altro avremo anche diversi premi in palio, perché mandiamo anche un po' di gente a vedere il film St. Vincent con Bill Murray. Bene. E quindi insomma state con noi, che fra un po' vi facciamo Babbo Natale cinematografico. E quindi buon Natale Franco. Buon Natale Marta e un augurio, un saluto a tutti. Regola numero uno: cos'è la prima cosa da guardare in una ragazza? La bellezza? La serietà. Quelle serie, no. Ma tu sei una strapona. Sai anche che significa questa parola? È contrario di fidanzata. Stanno arrivando gli assistenti sociali. Nostro nipote rischia l'istituto. Questo trailer lo avete sentito in tutte le salse da settimane, è il trailer di Un Natale Stupefacente, il film con Lillo, Greg, Ambra Angiolini e Paola Minaccioni, il film prodotto da Filmauro e che quindi sarebbe tradizionalmente il cinepanettone, definizione che è stata attribuita ai film appunto di De Laurentiis. Ma esiste ancora il cinepanettone? Lo abbiamo chiesto a Paola Minaccioni e al regista Bolfango De Biasi. Paese libero, quindi si può parlare di quel che si vuole, però non se l'ha inventato lui questo termine, è stato affibbiato come prodotto che passa e sparisce. Invece noi vogliamo pensare che è bello, è come un appuntamento meraviglioso, come c'è il panettone, c'è questo appuntamento con la risata. Beh, il panettone, per esempio, adesso con i canditi non va più il panettone, cioè ci sono tante forme di panettone. Poi alla fine si trova il panettone tutto l'anno, adesso se vuoi cercarlo. Quindi no, non so, io questa non sono snob nei confronti di questa definizione del film. Per cinepanettone io intendo un film che vuole intrattenere le famiglie a Natale e questo è esattamente un film che puntava all'intrattenimento natalizio e poi secondo me per la bravura del regista, degli sceneggiatori e un po' di tutti noi forse siamo riusciti a fare qualcosa che forse può arrivare anche a Pasqua, ecco, quindi anche sì. Un po' una cinecolomba, direi. Cinecolomba. Anche Cineferragosto sarebbe un po' la nostra ambizione. Poi quando uno dice ma poi fondamentalmente questo termine cinepanettone cosa pensi? Che è una cazzata, però questo diciamocelo fra di noi, no? Sì, è un po' forte. Abbiamo sentito in tutte le salse da settimane, i bambini lo hanno visto in TV, ci chiediamo se è adatto per i bambini. Io l'ho chiesto a loro, mi hanno assicurato che il film lo possono vedere anche i bimbi perché il protagonista è un ragazzino. Poi sentiremo anche cosa ne dirà il nostro Franco D'Assisti, che sarà con noi dopo il giornale radio delle 18, quindi dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpurea e i consigli per tutti i film in uscita questo fine settimana. Sono tanti, ma poi saranno quelli che ci accompagneranno per tutto il fine settimana natalizio. Io vi ricordo il numero per i vostri sms: 349 238 6666, sms che vi servirà tra poco anche per il nostro gioco all'interno dello spazio dei libri con Alessandra Tedesco. La domanda a cui rispondere via sms tratta dal trivial letterario e anche questa volta saranno i primi due che rispondono correttamente a portarsi a casa proprio la confezione del trivial letterario. Tutto questo nella seconda ora del Sabato del Villaggio, poi la terza ora sarà quella con il consueto appuntamento con RadioTube e Daniele Bellasio e le notizie della rete e dalla rete. Ora però è il momento di dare la linea al GR24 delle 16. Il Sabato del Villaggio. E buongiorno per la seconda ora del sabato pomeriggio in diretta di Radio 24, con me Marta Cagnola, il Sabato del Villaggio, la nostra guida per orientarci nelle tendenze, negli acquisti mentali, coi personaggi che ci fanno emozionare. Io vi tengo compagnia, ma voi tenetemi compagnia, il mio account di Twitter @MartaCagnola, l'hashtag ISDV, il Sabato del Villaggio, le iniziali. Vabbè, arrivano i messaggi delle appassionate di Flavio Insinna, lo so, vi capisco. E poi il numero per gli sms 349 238 6666, tra poco servirà per il gioco del trivia letterario insieme ad Alessandra Tedesco. Intanto vi posso svelare, perché me li hanno detti ora, chi sono i vincitori della scorsa puntata, i due vincitori del trivia letterario: Claudio dalla provincia di Brescia e Davide di Como. Beh, la domanda era facilissima, in pratica vi chiedevamo solo chi aveva scritto lì Il Signore degli Anelli. Chissà se questa volta sarà più complicato, ma cosa succederà nella seconda ora? Appunto, Alessandra Tedesco, Maria Luisa Pezzali, poi la serie TV del momento, ma prima tu tutti pazzi per i musical. Per molti, durante le vacanze di Natale, magari sotto l'albero un biglietto per il teatro. Per capire la magia del musical, andiamo idealmente nel backstage del Teatro Brancaccio di Roma. Non affezionatevi tanto al copione che leggete, perché vi posso cambiare le battute, vi posso invertire. È una visita di piacere o vi siete perso nel bosco? Oppure vediamo un po'. Siete passati per una crema chirurghe o un filtro energizzante? Questo è un backstage preziosissimo, perché niente è più curioso che vedere le riunioni di un cast, di un regista, sapere come nasce un'opera. In questo caso un'opera teatrale al Brancaccio di Roma, Rapunzel. È il momento delle feste a teatro, è il momento degli spettacoli teatrali, finalmente ce li possiamo concedere come spettatori, ma a volte anche come protagonisti. Io sono particolarmente emozionata perché lei è una leggenda. Buongiorno a Lorella Cuccarini. Addirittura leggenda. Sì, sì, vivente, Marta, leggenda vivente. Lorella, come sta andando? È iniziato da poche ore, l'avventura è iniziata da poche ore, la Rapunzel. Sì, da pochissimo, ma sta andando bene, bene, bene. Guarda, abbiamo fatto doppio spettacolo ieri con un pubblico che sembrava avesse già visto lo spettacolo per il calore dei saluti finali. Io devo dire che mi sto divertendo da impazzire, perché poi questo ruolo è un ruolo, è come entrare in un gioco fantastico, quindi proprio una vera goduria. Tu sei cattiva, sei madre Gothel. Beh, la storia di Rapunzel la conosciamo, sei madre Gothel, però Bari, perché ho letto che non ti sei tinta i capelli di nero ma ti metti una parrucca. No, scherzo. Non hai osato. Tu lo sai molto bene, non potrai mai diventare mora, anche se devo dire che sto riscuotendo molto successo. Tutto gli uomini mi dicono insomma che mora rendo molto. In realtà io poi non so nemmeno per quale motivo le more devono essere cattive, no? Nell'immaginario delle fiabe e dei cartoon le more sono sempre quelle cattive. Certamente la chioma nera, le unghie nere, questi vestiti così austeri aiutano molto insomma ad entrare nel ruolo. Beh, tu avevi fatto finora dei ruoli, beh, Sandy in Grease, Sweet Charity, quindi noi ti vediamo sempre come, sai, Lorella Cuccarini, dolce, romantica, anche mamma e tutto. Invece deve essere una soddisfazione da attrice essere finalmente cattiva. Non so, perché poi le attrici lo dicono sempre, o dicono voglio far ridere o dicono voglio essere cattiva. No, è vero, è vero. Devo dire, credo che sia una di quelle prove che prima o poi bisogna affrontare, no? Nel nostro mestiere. Io penso, insomma, di essere arrivata quasi sulla soglia dei 50 a una maturità che permette anche questo. Oltretutto, il cattivo delle fiabe è un cattivo che veramente ti permette di essere tanto, no? Perché Gothel è malvagia, ma è anche ironica, è sensuale, a tratti grottesca e nel finale anche comica. Che è un po' il risvolto, quello che mi diverte di più, insomma, è quello che devo dire fa divertire molto anche il pubblico. Hai detto la soglia del 50, ma quando mai? Ma tu sei, cioè io t'ho visto, ma posso dirlo che t'ho visto pure da vicino, ma ragazza mia, ma quali 50? Ho capito, però insomma, sai, l'anagrafe non mente, sono nata nel 65, quindi quest'anno si festeggia il capodanno dell'anno decisivo. Esattamente, bello, emozionante. Esattamente, pensa che poi sono anche 30 anni di carriera, quindi insomma proprio sono tutti numeri tondi. Vabbè, tanto guarda che per dirti Sugar la so ancora a memoria, non credere. Ma sì, ma guarda che non cambia niente. Ah, non cambia niente. Ma no, assolutamente, appunto. Io anzi me ne sento 20 se proprio dovessi dirtelo. Ma anch'io, ma anch'io. Lorella, è molto il momento dei musical, cioè, sai, questa settimana hanno fatto dei provini a Milano per un paio di musical e c'erano migliaia di ragazzi, quindi sognare di andarli a vedere, poi nelle feste sono perfetti, e sognare di partecipare. Perché secondo te questo fenomeno? Perché ci sono tanti ragazzi bravi, tanti ragazzi bravissimi, tanti professionisti e pochissimo lavoro. Purtroppo c'è da dire anche questo. Oramai le opportunità per chi fa questo mestiere non sono molte, perché anche la televisione non ne offre più. E quindi è chiaro che quando c'è il titolo importante a teatro sono tante le persone che si propongono. Ma sai che tanti italiani vanno anche all'estero, per esempio Amburgo, piuttosto che Londra, cioè tutte le grandi città che hanno che hanno teatro, che hanno musico, ci sono tanti italiani che lavorano all'estero che sono veramente grandissimi talenti. Oggi fare un'audizione per un musical è veramente un piacere, perché fai fatica a selezionarli, perché ne vorresti prendere 100 e magari invece ne devi prendere solo 15, perché sono tutti bravi. Io mi ricordo quando facemmo l'audizione di Grease, che era il lontano 97, ecco, ancora si trovavano ragazzi che magari erano più bravi nel ballo oppure nel canto, ma insomma era difficile trovare qualcuno che sapesse in qualche modo far tutto, no? Egregiamente. Oggi è molto più semplice. Secondo te quanto hanno aiutato certe trasmissioni televisive tipo i talent? Ma a te non chiedo niente dei talent, perché sono successe delle cose di cui non dobbiamo parlare di talent, no, perché poi abbiamo già preso, noi abbiamo preso posizione su Twitter, che poi è il posto in cui ci incontriamo, è quello che ci interessa. Sì, esattamente. Anzi, L Cuccarini lo diciamo su Twitter, perché poi Lorella interagisce, parla, cioè non è una di quelle sono proprio lo usa proprio. Social, sì. Quanto hanno aiutato le trasmissioni televisive che parlano di talento, tutti i talent show, ragazzi che sanno ballare, sanno cantare? Sembra che tutto questo abbia spinto i ragazzi più giovani a voler imparare. Ma guarda, io non credo che i talent abbiano in che modo aiutato la crescita di talenti, anzi al contrario, io credo che i talenti ci fossero già da prima e che i talenti in qualche modo abbiano fatto pensare che fosse più semplice arrivare, perché è chiaro, insomma, che tu cominci con una trasmissione televisiva che ti pone l'attenzione di milioni di telespettatori, per cui è chiaro che il momento in cui esci da un talent è un po' come se fossi già arrivato. In realtà il talent bisognerebbe viverlo come un punto di partenza e basta, ma i professionisti, le persone che vogliono fare questo mestiere, spesso non pensano nemmeno di arrivare a un talent, perché hanno già alle spalle un background, una scuola che li ha portati ad avere esperienze magari anche molto presto. Ti chiedo un'ultima cosa, ma con tutti questi spettacoli al Brancaccio fino al 25 gennaio, riesci a fare un po' di Natale con i tuoi ormai ex bambini che sono diventati grandissimi? Riesci a festeggiare certo. Un po'? Ma sì, guarda, a parte che il 25 lo faremo sicuramente a teatro, come faremo il 13 di Capodanno, il 31, ma il 24 è il giorno, diciamo, il nostro giorno di riposo, e poi il giorno del Natale, no? È proprio quello della cena, quello della messa, cioè quello che ti fa veramente vivere e respirare il clima del Natale. Per il resto, il fatto di lavorare così intensamente tutto il periodo delle feste non mi dispiace affatto, anzi, questo clima, questo calore, questa conquista del pubblico tutte le sere è qualcosa che mi dà proprio una gioia di vivere, un'energia che insomma veramente auguro a tutte le persone che amano questo mestiere. E questa energia secondo me ci spiega anche proprio questo fenomeno, questa voglia di divertirsi insieme a teatro. Grazie Lorella, in bocca al lupo. Grazie. Anzi, posso dirlo, che tanto non lo possiamo dire, merda per sì, il prossimo. Assolutamente. E comunque io sono nella tana del lupo, perché in certo. Rapunzel c'è anche la tana del lupo, quindi ci siamo finiti fantastico. Proprio dentro. Fantastico, grazie a Lorella Cuccarini. Grazie, un abbraccio e buon Natale. Giornata. Ciao Marta, a te, tanti auguri. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme dopo gli aggiornamenti del traffico. È il momento dei libri, ma anche, ve lo ricordo, della domanda del Trivia Letterario. State pronti al 349-238-6666. Cosa ci avrà portato Alessandra Tedesco? Nel montaggio a volte si dice cane, cioè dici cane e si vede un cane, cioè in pratica parli di una cosa e mostri esattamente questa. Noi stiamo facendo cane alla radio, ascoltiamo Thriller e parliamo di chissà di cosa parliamo con Alessandra Tedesco. Buongiorno Alessandra. Scusa Marta, ma questa cosa lo sapevi? Cane? No, mi fa molto ridere, non la sapevo. Lo sapevi? Bellissima. Di Thriller, cane? Di Michael Jackson, di cosa parleremo? Di Romanzi Rosa. Ah, non è vero. No, non è vero, parliamo di thriller gialli e noir, perché sono i libri di cui si sta parlando di più in questo momento, perché Marta, vabbè, si sa che insomma sotto Natale è il periodo in cui si vendono più libri in assoluto in Italia, si registra il maggior volume di vendite e guarda un po', i libri di cui si sta parlando sono tutti gialli, thriller o noir, sia italiani che stranieri. Sotto l'albero tutti. tutti avranno comprato o riceveranno libri di paura per perdere un po' di paura durante le vacanze. Beh, insomma, te ne cito qualcuno. La regola dell'equilibrio di Gianrico Carofiglio, ne avevamo già parlato, sì, anche il sabato del villaggio, che è un nuovo episodio dell'avvocato Guerrieri, che è il suo personaggio seriale. E poi naturalmente l'immancabile Camilleri, se ne sta parlando tutto quest'anno, devo dire, perché quest'anno è stato il 20° anniversario di Montalbano, che il personaggio è nato nel 94, tra l'altro, parentesi, stasera il cacciatore di libri, super specialone dedicato ad Andrea Camilleri a Montalbano, ma facciamo finta di niente. Bene. E quindi uno dei libri di cui si sta parlando di più è Morte in mare aperto, appunto di Andrea Camilleri, che ricostruisce, diciamo, una sorta di prequel di Montalbano, cioè i racconti del giovane Montalbano, che cosa combinava prima di diventare così famoso, insomma. Allora, un altro libro di cui si sta parlando molto è il classico legal thriller di John Grisham, Mr. John Grisham, I segreti di Grey Mountain. Tra l'altro è un legal thriller che interessa anche gli ascoltatori di Radio 24, perché c'è la crisi finanziaria dietro, si rivede un po' il crollo di Lehman Brothers e ci sono anche queste cose in questo legal thriller. Io non leggo tanti thriller, questo mi incuriosisce molto. Sì, devo dire, quelli finanziari sono a volte difficili, sì, da comprendere. Sì, complesso, però mi incuriosisce. Però è un modo anche per comprendere la finanza, sai, perché viene comunque esplicitata in modo più chiaro dagli scrittori, dai narratori, proprio perché non tutti possono comprendere gli intrighi finanziari. Allora, visto che insomma questo è il periodo in cui si parla tantissimo gialli, thriller e noir, ho incontrato Carlo Lucarelli, che è uno dei noiristi italiani più importanti. Tra l'altro si sta parlando anche del suo piccolo romanzo che si chiama Albergo Italia, è un piccolo poliziesco con sfondo storico, è stato fatto per l'anniversario della nascita dell'Arma dei Carabinieri e è un giallo ambientato in Eritrea durante il colonialismo italiano ed è un giallo classico, nel senso che avviene un omicidio in questo albergo, nessuno può uscire, nessuno può entrare, quindi insomma il presunto colpevole è all'interno di questo Albergo Italia. Però insomma con Lucarelli abbiamo fatto un discorso un po' più a 360 gradi su questa moda dei thriller gialli e noir e gli ho chiesto se esistono ancora le regole per scrivere un buon giallo. Tutti i grandi autori hanno infranto le regole precedenti, hanno inventato nuove regole per scrivere un giallo. Van Dyne scrive le 20 regole per scrivere un giallo ferre, poi arrivano gli altri e dicono non ci sono regole, ci sono solo le mie e te ne fanno altre 10. Non ci sono regole. C'è una regola della narrativa, non so come dire, un istinto, un respiro narrativo. Io ho sempre fatto questo esempio, che è questo: il bambino che torna a casa da scuola, capisci che uno è un narratore da lì e ti racconta tutto quello che ha fatto la maestra. Oggi la maestra ha fatto piripipiripi, noiosissimo a volte. Cosa vuoi che gli succeda? Ai 10 anni, se non sei uno di quei casi che va sul giornale, non è successo niente. Questo è un certo tipo di narrazione. Poi esiste un altro tipo di narrazione, che è quella del noir, ed è il bambino che torna a casa, vede che i genitori non lo considerano più e allora dice: non immaginerete mai cosa ha fatto oggi la maestra. Ecco, questa è l'unica regola. Costruisco un mistero e non te lo racconto subito. Questo è il noir, il thriller, il giallo, tutta quella cosa. Noi raccontiamo così: guardami un po', non immaginerai mai cosa ha fatto oggi la maestra. Cosa? E se il bambino è un vero narratore di thriller, in quel momento si versa un bicchiere d'acqua con una esasperante lentezza. Questi siamo noi. Il resto sono regole che ci inventiamo nel momento, insomma. Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole. Cambierebbero le cose. Ti immagini se con un salto si potesse anche volare? Se in un abbraccio si potesse scomparire? Ma perché ascoltiamo in Modaccia? E non solo perché torniamo un po' in atmosfera Sanremo, abbiamo parlato del prossimo con Carlo Conti, questo invece è quello di 2 anni fa, arrivarono terzi a Sanremo 2013, ma questa però era anche la vediamo colonna se sonora brava, la colonna di un sonora film che era bianca come il latte, rossa, rossa come il sangue. Sì, un titolo che è quasi uno scioglilingua. Io dico sempre il contrario. No, fanno tutti colori, così. Poi non mi tornano. Non ti torna, però è quasi uno scioglilingua. È stato un libro molto, molto famoso, di successo, scritto da Alessandro Davenia, pubblicato da Mondadori. Era stato la sua opera prima, insomma. Lui è nato a Palermo, però insegna in un liceo a Milano. Lo scrittore, insomma, è uno scrittore giovane, piace moltissimo ai ragazzi. Aveva poi scritto cose cose che nessuno sa, ma il romanzo di cui si sta parlando molto in questo periodo e che sta scalando le classifiche è il suo ultimo romanzo, che si intitola Ciò che inferno non è. Come al solito c'è uno scenario, insomma, di giovani. Il protagonista è Federico, 17 anni, prima di partire per la sua vacanza studio in Inghilterra, incontra il suo insegnante di religione, il suo prof di religione, che è un personaggio realmente esistito, una persona realmente esistita, padre Pino Puglisi. Ah. Che gli chiede infatti di, come dire, di dargli una mano, insomma, con i bambini di Brancaccio. E qui questo ragazzo, insomma, scoprirà, come dire, la vita vera e scoprirà tante cose. È un romanzo toccante, è un romanzo intelligente, secondo me, è un romanzo che consiglio soprattutto ai ragazzi, proprio perché Davenia ha questo modo di scrivere molto che colpisce molto l'immaginario giovanile. Quindi direi i ragazzi dai 15 anni in su possono tranquillamente leggere questo Ciò che inferno non è e, come dire, vedere anche un mondo diverso da quello che conoscono. Consigli, io so che moltissimi sono anche questo pomeriggio alla caccia dei regali, insomma non agli sgoccioli ma quasi, regalare libri, sai, a me attraggono molto ad esempio i libri di cucina, non che poi io faccia le ricette, mi attraggono molto però. Infatti posso dire che sei nella media degli italiani. Dai. O ti offendi? No, cioè perché magari no. Li sfoglio, però poi non è che mi metti davvero la stessa . Cosa, e infatti da una ricerca proprio che è stata pubblicata qualche tempo fa, neanche un paio di settimane fa, dall'Associazione Italiana Editori, è emerso che il 20% di coloro che acquistano libri lo fa per le ricette. Ah, solo il 20%? Solo il 20%. L'altro 80% li acquista perché sono di un personaggio televisivo, vabbè, Masterchef e così via, ma anche di uno chef famoso. Ormai gli chef sono diventati più importanti e più opinion leader di tanti altri intellettuali. Certo. Quindi, insomma, si comprano questi libri. A proposito, tra l'altro, di trasmissioni televisive e di chef molto noti, tu ti sei vista Masterchef? Mi sono vista Masterchef, avevamo parlato del libro di Giobba Stianic. E invece oggi ti ho portato Dire, Fare, Brasare di Carlo Cranco, pubblicato da Rizzoli. Io vorrei conoscere quello che inventa i titoli di Cranco. C'era quello lì, se vuoi fare il figo, compra lo scalogno, usa lo scalogno, una roba del genere. E invece Dire, Fare, Brasare è un libro, insomma, io lo trovo interessante perché è un libro più tecnico rispetto ai precedenti. C'è una prima parte dove Carlo Cranco spiega le tecniche, arrostire, cucinare a vapore, brasare naturalmente, friggere, e poi nella seconda parte ci sono le ricette divise per tecniche, per esempio vignè fritti con banane e nespole. Oh, può darsi, non lo so. Rombo in crosta di sale, e qui ti spiega come pulire il pesce, perché poi quando vai a vedere Masterchef Junior vedi questi ragazzini che sanno sfilettare il pesce, ti senti veramente un idiota. Mamma mia, veramente. E invece con Dire, Fare, Brasare puoi impararlo. Beh, devo dire che già solo per cultura generale imparare le tecniche, imparare cosa sono, potrebbe rivelarsi interessante. Hai in mano un libro che mi piace molto? Alla radio, quanto mi piace farlo. Mostriamo vedere i libri alla radio, perché io ho visto recentemente in televisione un'intervista a questo autore, io sono rimasta affascinatissima, un uomo veramente affascinante, un uomo âgé, diciamo così, però sì. Allora, lui è Ferdinando Scianna, è famosissimo come fotografo italiano a livello internazionale, ma vi ho portato questo suo libro che si intitola Visti e Scritti, pubblicato da Contrasto, perché ci sono sì delle foto di personaggi famosi, di suoi amici e parenti o di persone comuni che lui ha fotografato nelle piazze d'Italia, e li ha accompagnati tutti a un piccolo testo narrativo, perché ultimamente Ferdinando Scianna sta mettendo insieme narrativa e fotografia, e quindi ci sono personaggi famosi, non so, come Italo Calvino, e ricorda dove e come si sono incontrati, Henri Cartier-Bresson, ma ci sono anche registi come Gianni Amelio, cantanti come Carmen Consoli. Insomma, è un libro da sfogliare, guardare e leggere in queste didascalie, come dire, allargate. È il momento della domanda del nostro Trivial Letterario. Vi ricordo 349-238-6666 per i vostri sms. I primi due che rispondono esattamente si aggiudicano, si portano a casa il nostro Trivial Letterario. Allora Marta, puoi scegliere letteratura, cinema, l'abbiamo già fatto, antica, straniera, nel teatro e nella lirica l'abbiamo fatto, gialla, letteratura italiana. Cosa scegli? Gialla, perché abbiamo parlato di thriller. Giusto, ma che domanda idiota che ho fatto. Allora, Sembrerà strano, ma la letteratura gialla ha il colore viola in questo gioco. La domanda, attenzione tutti mani sul computer, su Google. In quale città, domanda facile facile, sono ambientati i libri gialli di Dario Carapanzano? Non lo so, io avrei bisogno forse di un aiuto del pubblico, della, com'è che si faceva, la del 50-50? No, però secondo me stanno già arrivando gli sms al 349-238-6666, i primi due si portano a casa il nostro trivia letterario. Alessandra, l'appuntamento con lo speciale Camilleri di stasera alle 22.05, vi dico col cuore, non perdetelo perché è stato un incontro che veramente mi ha emozionato tanto. Il signor Camilleri ha tante cose da raccontare ancora. Grazie Alessandra Tedesco, intanto buon Natale, ci ritroviamo sabato prossimo con Sabato del Villaggio. Buon Natale a tutti. Il Sabato del Villaggio. Abbiamo parlato di libri con Alessandra Tedesco, ma io qui in mano ancora la carta del trivia letterario, i primi due che risponderanno esattamente. So che è abbastanza difficile questa volta la domanda: in quale città sono ambientati i libri gialli di Dario Carapanzano? 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi SMS. Ora però è il momento dei consumi e delle nuove tendenze, insomma molti di voi, lo so, sono in macchina, mi ripeto, ma succede, no? Tanta gente in macchina in giro a cercare gli ultimi regali di Natale, quindi questo blocco è particolarmente importante. Per parlare di consumi e nuove tendenze ci affidiamo alla nostra esperta Maria Luisa Pezzali. Oggi parliamo di regali, certo, ma non solo. Buon pomeriggio Maria Luisa. Buon pomeriggio Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi tornerei su un tema di cui ho parlato poco tempo fa in Essere Avere, che continua a raccogliere contributi e segnalazioni, in particolare sulla nostra pagina Facebook. Parliamo, Marta, di discoteche abbandonate. Ah, io ho visto delle foto in rete, esatto, che circolavano molto, molto affascinanti, inquietanti e affascinanti allo stesso tempo. Sì, con un mood nostalgico, sì, che richiama molti, molti ricordi, perché le discoteche anni 90, il tempio del divertimento di quegli anni, giacciono, per così dire, abbandonate, sono ormai cadute in disuso, sono fuori moda, e questa situazione è il simbolo di una rivoluzione che passa nelle abitudini di molti di noi, dei nostri figli magari o del gruppo di amici, perché le abitudini cambiano, anche i luoghi, in questo caso i luoghi del consumo, il consumo culturale come sono le discoteche, i locali spesso enormi, si parla, Marta, di strutture, le ricorderai, anche di 2000 metri quadri. Ah, tu dove andavi? Sono curiosa di sapere dove andavi a ballare tu, Maria Luisa. Beh, devo elencarne, poi dobbiamo cambiare provincia rispetto... Ah, siamo più sulla provincia di Brescia. Esattamente. Tu. Ah, ok. Ci facciamo un'altra puntata. Ci facciamo una puntata in cui raccontiamo noi dove andavamo a ballare. A Marcord, esattamente. Finiscono, pensa, in vendita sul web. Sono decine da ogni parte d'Italia gli annunci che suggeriscono di riconvertire questi locali in depositi, parcheggi, certo, supermercati oppure addirittura gelaterie. I prezzi variano da decine di migliaia di euro a fino al milione di euro per strutture veramente imponenti, importanti. C'erano i marmi, c'erano i giardini, c'erano le fontane, insomma c'è veramente di tutto. La segnalazione ci è arrivata dal sito immobiliare.it, e poi però parlavi delle gallery sui blog, sui siti, ce n'è uno bellissimo, si chiama Memories on a Dance Floor, attraverso una serie di foto molto belle fa praticamente il giro delle discoteche abbandonate nella provincia italiana. Molti ritroveranno magari quelle proprio dei ricordi e delle frequentazioni giovanili. A me ricordano un po' Gabriele Basilico, grande, certo, fotografo, certo, maestro, certo, in quel, certo, caso vero? L'oggetto erano le aree dismesse, le fabbriche, però quel senso di nostalgia e di abbandono accomuna anche questo. Ricordo, a proposito di fotografia, anche un bellissimo progetto fotografico di Antonio La Grotta, il suo lavoro Paradise Discotheque è stato pubblicato su numerose riviste e siti internazionali. Insomma, Marta, tutto questo per questa riflessione: com'è cambiato il divertimento in questi ultimi 20-30 anni? Perché abbiamo detto, le abitudini cambiano, i luoghi del consumo. Perché sono cadute in disuso le discoteche, questa tipologia di discoteche, rispetto alle abitudini dei più giovani? Lo abbiamo chiesto ad una studiosa, un'antropologa del divertimento, penso. Bel mestiere. Assolutamente. Laura Bonato insegna all'Università di Torino e tra l'altro autrice del libro Tieni il tempo. Sentiamo cosa ci ha raccontato. Il fatto che le discoteche siano cadute in stato di abbandono è anche dato dal diverso approccio che si ha con la musica, perché io penso alle discoteche degli anni 70-80 quando interversava la disco music. E allora si frequentavano appunto queste grandi discoteche. Adesso forse le discoteche sono caratterizzate più per essere delle strutture medio-piccole che propongono generi musicali diversi, ognuno propone un genere musicale particolare. E quindi direi che forse le discoteche sono un po' evolute non solo nella struttura, nell'aspetto, nell'utenza, ma proprio di pari passo con quella che è la musica ballabile, no? Quindi c'è questo ritorno verso locali di media e piccola grandezza, forse anche perché è in questi posti che si può più facilmente entrare in relazione. I giovani si ritrovano, e anche in gran numero, però in altri posti. A me è sembrato di notare che vogliono sfruttare maggiormente quelli che sono gli spazi pubblici. Ci sono fenomeni quali ad esempio quelli dei maxi aperitivi, che forse in Italia ancora non sono molto conosciuti, ma che da 3-4 anni a questa parte, dalla Francia, si stanno allargando, toccando tutta l'Europa, che prevedono proprio il contatto tramite il web. E poi appunto il ritrovarsi nelle piazze per stare insieme, per ballare, per cantare, per parlare, condividendo magari qualche cosa da bere, qualche cosa da mangiare. Però ci sono altri eventi culturali, quali non so, la Notte Bianca, piuttosto che i flash mob, che ci danno proprio l'idea di come i giovani vogliano ritrovarsi anche per le strade, nelle piazze, quasi come se la piazza riacquistasse quel suo antico ruolo di luogo di ritrovo e di socialità. Anche perché, ripeto, a mio parere il cyberspazio, che comunque è un luogo che crea legame a rispetto di quel che si pensa, crea legame perché maggiori sono i contatti, diciamo, virtuali, e più forte si sente questa esigenza di contatto reale. Non potevo resistere, la regina del celebrità, una hit fine anni 90, all'inizio del 2000, tuo omonimo Max Pezzali. Esatto, Pezzali, sempre Max sul Pezzali, pezzo. Sempre Marta. Sul pezzo, sì. Il ricordo di gioventù di questa ragazza che era la più bella della discoteca che frequentava lui. Non c'è più, chissà che fine ha fatto la ragazza, lui poi la rincontra, chissà che fine ha fatto la discoteca. Io ho guardato, ma ce ne sono tantissime in vendita, ma sì. Davvero tante. Sì, sì, ti ci perdi. Sì, sì. Suggeriamo sì. A tutti, sì, sì, le sì. Postiamo, Marta, sì, le gallerie, perché sono annunci... veramente divertenti. Sì. Incredibile, proprio è cambiato tutto, è cambiato il modo di divertirsi, come sentivamo. Mi è piaciuta molto la sottolineatura che faceva Laura Bonato, una generazione, se ci pensiamo, conta poco in termini numerici, ha poche prospettive di futuro. Quando si parla dei giovani si parla sempre in maniera negativa, vive appunto in modo molto virtuale e appunto ha questa voglia di occupare lo spazio pubblico, sì, di farsi sì, vedere, sì, quindi sì. Mi sembra veramente una bella sottolineatura. Adesso però andiamo ai nostri consigli. Manca ancora un po' di giorni a Natale, secondo me qualcuno ha ancora dei regali da fare, quindi strategie anticrisi, magari anche qualche consiglio per gli acquisti dei regali, perché no, Maria Luisa? Cosa c'è di più anticrisi del fai da te, Marta? Ah, beh, certo, la tendenza certo, del sì. Do it yourself è molto up to date in questo momento, molto forte nel panorama dei consumi. Ormai ci sono i kit per fare un po' di tutto, con il giusto tutorial e il giusto kit non c'è competenza che noi non possiamo acquisire. Tema principe del fai da te, ovviamente, Marta, la cucina. Beh, ormai di cucina si parla, neanche coi libri abbiamo parlato di cucina, cucina principe in tutto. Quindi parliamo dei kit per la cucina fai da te, lo facciamo come sempre con Cristina Lazzati, la direttrice di Markup e GDO Week. Ciao Cristina. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio Cristina. Eccoci qui con i kit della cucina fai da te, anche perché è un regalo molto carino, perché adesso sappiamo che gli italiani poi escono meno, a quanto pare non vanno neppure più tanto in discoteca e vogliono cucinare, ma non tutti hanno le abilità che sono richieste guardando le varie trasmissioni dedicate agli chef. Gli si può dare un aiutino, ci possiamo dare un aiutino. Io partirei subito con i dolci, sapete questa pazzia per i muffin, per i cupcake, eccetera, ci viene in aiuto questa linea che si chiama Cuore, dove c'è questi sacchettini rosa che magari qualcuno di voi avrà visto, sono venduti da Italy ma anche da altre catene come Stelunga, Coppa, eccetera. Sono sacchettini rosa dove c'è un po' tutto, proprio dagli ingredienti, mancano solo i freschi tipo burro e uova, ma fondamentalmente il resto c'è. Anche la formina per fare il biscotto, se sono dedicati al biscotto, alla teglia per fare la torta, esiste addirittura un sacchettino per la crostata senza cottura, quindi niente paura, se non sapete usare il forno buttatevi su quella e verrà fuori la torta comunque. Beh, una magia praticamente. Praticamente una magia, o praticamente burro. E poi c'è anche la cucina molecolare, per chi invece vuole fare proprio strabiliare i suoi ospiti, c'è un sito canadese che ve lo dico come viene scritto, www.molecule-r.com, dove si può ordinare tutti i più vari kit per la cucina molecolare, e con questi si può emulsionare, gelificare, trasformare in microsfere i vari ingredienti e pietanze. Ci sono ovviamente in vendita anche DVD con videoricette, perché anche se è un kit fai da te, insomma un minimo di aiuto qui ci vuole proprio. Poi torniamo in Italia con Io Cuoco, che è un kit per la cucina toscana fai da te, appena lanciato, che però viene lanciato e venduto anche all'estero, per cui ci sono spiegazioni anche in inglese per chi fuori dall'Italia vuole improvvisarsi chef made in Italy. Poi abbiamo chefdovunque.it, c'è cioè il sito, ma vengono venduti anche quelle nelle catene, dove invece passiamo alla cucina classica italiana, in particolare Lazio, Campania e Umbria. E qui abbiamo i kit per farci la pasta, cacio e pepe, al tartufo, c'è la linea integrale, c'è quella degustazione, c'è la linea anche benessere per chi vuole mangiare solo integrale, in questo caso abbiamo lo spaghetto, il sugo pronto, le spezie e quanto serve per due o tre porzioni, diciamo due abbondanti, tre se stiamo un pochino attenti alla linea. Non dobbiamo solo mangiare, no, ma possiamo anche bere, e infatti ci sono i kit per farsi la birra. I kit per farsi la birra si trovano su beerewine.it, dove ci sono dei malti di vario genere con vari costi, diciamo che più o meno siamo sui 70-80 euro in questo caso, e ci sono i malti che arrivano dalla Finlandia e i malti che arrivano dalla Svezia, e anche il mulino con i rulli ammortizzati, che me lo sono scritto perché non me lo sarei mai ricordato, che è una novità assoluta, almeno dicono dal sito, per chi fa la birra in casa. Per chi se ne intende avrà capito di quello di cui sto parlando. Ovviamente anche in questo caso non mancano le ricette. E poi infine una novità molto sfiziosa, che però in me, per chi vuole farlo per Natale, ho letto sul sito che è finita e spediscono solo dopo Natale perché è andata a ruba, è di Carry On Cocktail Kit, che di fatto è una scatoletta molto carina e molto graziosa, dove ci si può portare degli ingredienti con una porzione minima, quindi che può viaggiare in aereo, per farsi il proprio cocktail ordinando solo la bottiglietta, e poi ci si fa tutto da solo. Quindi c'è il cucchiaio da cocktail, lo zucchero di canna, il tovagliolino di lino, molto chic. Se invece tutto questo lo vogliamo fare in casa, nel blog Dritte in Cucina si possono trovare dei consigli per fare dei kit fai da te da regalare alle amiche, molto carine, con in cui si mettono tutti i vari ingredienti e vengono, devo dire, degli oggettini molto carini, assolutamente risparmiosi. Straordinario per tutti i regali dell'ultimo momento, spero che abbiate preso nota, altrimenti come al solito vi twitto tutto durante le pause, vi preparo il tweet con tutte le segnalazioni di Cristina Lazzati. Perfetto, grazie a tutti e buon pomeriggio. Grazie Cristina. E anche ciao. Buon Natale. Luisa invece l'appuntamento con essere domani alle 15, non mancate. Domani alle 15, buon Natale anche a te, e al prossimo sabato col Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. L'ultimo blocco, l'ultima parte del Sabato del Villaggio, prima che ci cambiamo d'abito, ci mettiamo quello da cocktail per la nostra ora di RadioTube. Avremo un ospite, parleremo di temi molto seri, cercando sempre di farlo con leggerezza perché è sabato pomeriggio, ma di temi di grande serietà e di grande profondità. Intanto devo ringraziare tutti i vostri messaggi al 349-238-6666, perché non solo le risposte al trivia letterario in quale città sono ambientati i libri gialli di Dario Crapanzano, ma anche i saluti, i complimenti, ringraziamenti ringrazio Laura e poi ringrazio Chiara e Roberto che scrivono, ci stanno ascoltando in autostrada con una panda e due gatti, cioè due persone, due gatti e una macchina, e chissà come sta andando. Quindi io penso sempre a tutti quelli che sono in viaggio, quando ci sono le informazioni sul traffico penso che siano sempre molto preziose, soprattutto in questi momenti di grandi spostamenti per i regali. Abbiamo parlato di libri, abbiamo parlato di tecnologie, abbiamo parlato di cinema, ultimo capitolo per quest'ora, le serie TV. È appena iniziata in Italia, il martedì in prima serata su Sky Atlantic, ma già fa discutere, brividi, risate. Sentiamo, entriamo nell'atmosfera. Facciamo un passo indietro. 1996, Festival di Cannes, viene presentato un film chiamato Fargo, una storia di omicidi, di truffe in una sperduta cittadina del Minnesota. Scritto da due registi che non erano alle prime armi, ma non erano ancora famosissimi, lo diventeranno lì. Joel e Ethan Coen, premio della giuria lì a Cannes, nomination ai Golden Globe, due Oscar nel 97 per la miglior sceneggiatura originale e per la miglior attrice protagonista. La consacrazione per i fratelli Coen. Questo è era Fargo. Ora Fargo è diventata una serie TV e io direi: operazione pericolosissima, sarà riuscita questa operazione? Ne stanno parlando tutti e noi ne parliamo con un ospite che è qui accanto a me, Diego Castelli, serialminds.com. Diego, buonasera. Ciao, ciao a tutti. Anzi, do subito anche i tuoi account di Twitter, il tuo che è @DiegoCastelli82. Vai, che ho pochissimi follower. Aumentiamoli, seguiamo tutti Diego. E @SerialMinds, che è poi l'account ufficiale del sito. Io ho detto pericolosissimo, perché di solito si dice: allora, era meglio il libro, era meglio il film. In questo caso intanto la storia è diversa, perché c'è sempre la cittadina nel Minnesota, là c'era un criminale spietato, un uomo normale che diventa violento. Qui cosa succede? Sì, io sono d'accordo nel dire pericolosissimo, ma alla fine scommessa vinta probabilmente, nel senso che effettivamente vai a prendere una cosa che dopo 20 anni è diventata cult. C'è chi dice che è ancora rimasto il miglior film dei Coen di sempre, nonostante I Grandi Lebowski, piuttosto che tutto quello che è venuto dopo. E quindi prendere questa cosa e trasformarla in una serie, come dici tu, pur cambiando la storia, c'è il rischio di annacquare, di rovinare qualcosa che i fan considerano come intoccabile, no? Diventa una cosa quasi religiosa. In realtà la scommessa è vinta proprio perché quello che sono riusciti a fare i fratelli Coen, diciamo i fratelli Coen che in realtà sono produttori esecutivi, non hanno scritto loro materialmente o girato loro materialmente la cosa, l'obiettivo era ricreare la stessa atmosfera in qualche modo, e questa cosa ci sono riusciti, nel senso che hanno ripreso la stessa aura di insieme violento, criminale, ma anche grottesco, comico e un po' strano, imbarazzante, e sono riusciti a ridare in 10 episodi la stessa atmosfera e le stesse sensazioni che avevano dato prima in 90 minuti, 100 minuti. Mi sembra anche un po' un segno di quello che sono adesso le serie TV, cioè prima la serie TV era una sorta di riduzione in scala minore di una storia, invece adesso la serie TV ha la stessa dignità del film. Direi che ormai c'è la stessa, guarda, io ti direi che in alcuni casi persino la supera, nel senso che siamo, ogni tanto ci capita di vedere magari film che in 90 minuti non riescono a raccontare bene una storia, che dici, eppure dovresti essere riuscito a fare 90 pagine di sceneggiatura decente, e poi troviamo serie TV che hanno 10 episodi e quindi le pagine sono magari 600, dove però reggono dall'inizio alla fine. Fargo è uno di questi. Le interpretazioni, allora c'è Billy Bob Thornton, che è questo Lorne malvo, violento, delinquente. C'è Martin Freeman, che è Lester, che è quest'uomo normale, che però normale non si, diciamo che parte normale, poi ne farà, poi no. Non si può spiegare molto della trama, perché sono un sacco, sì, di imprevisti, ogni minuto è un angolo da svoltare. Esatto. L'investigatrice nel film, insomma, era Frances McDormand, sì. E lì era difficile, che tra parentesi protagonista di una grande serie televisiva che è Olive Kitteridge su HBO, esatto. E stiamo aspettando anche quella, io l'ho vista qualche mese fa, straordinaria, sì. Venezia. Invece qui Alison Tolman, bravissima. Brava anche lei, ma infatti all'epoca Frances McDormand magari si conosceva un po' meno, anche la grande tubola. Lei è la moglie di Joel Coen o Ethan, adesso mi sfugge, credo sia la moglie, sì, di Joel. Sì, di fondo Mi confondo sempre. All'epoca quindi in qualche modo lei, che poi ha vinto l'Oscar per le interpretazioni recitazione di Fargo, poi è diventata grande star, diciamo. E adesso vediamo, magari succederà anche a lei, però diciamo che lei riprende lo stesso personaggio, un personaggio simile, perché è di nuovo una poliziotta, di nuovo incinta, quindi a un certo punto anche col pancione, che va dietro a questi due sciamannati totali. Che poi, appunto, la cosa bella che fa anche lo stile Coen è che Lord Malvo è sì un criminale, sì un sicario, ma è anche una sorta di filosofo saggio, e poi è un criminale a cui piace fare quello che fa, non so come dire. Sì, quindi alla fine arrivi a provare un affetto per lui che è quasi colpevole, dici ma perché io dovrei appassionarmelo così? E invece, poi sono i cattivi migliori quelli, esatto, per i quali provi empatia. E lo stesso Lester, che sì è un agente assicurativo un po' sfigatino, un po' così, però riesce a fare delle cose di un'atrocità talmente enorme che anche lui ti stupisce all'interno di questo specie di piccolo microcosmo che non è Fargo, perché non è ambientata specificamente a Fargo la serie, però è questa neve, questo bianco in cui sono immersi. Tra l'altro sorrido perché mentre io controllavo, è la moglie di Joel Coen, perché mi confondo sempre, il nostro Christian Goldoni in regia mi scrive al cartello moglie di Joel. Sì, perché cioè, me li confondo. Tu su Serial Minds, tu ma anche Marco Villa, avete scritto molto, e mi è piaciuto molto il perché seguirla invece perché mollarla. Mm-hmm. Cioè, a chi la consigliamo, a chi non la consigliamo, perché insomma è giusto anche che io personalmente l'ho vista iniziare, io non la posso vedere la sera perché mi inquieta molto. Chi la deve seguire e chi non la deve seguire? Ma diciamo che di base si consiglia a tutti, nel momento in cui ti piace si consiglia a tutti, però è vero che è una cosa molto particolare, cioè non è la narrazione classica televisiva che si vede sempre, e quindi può sicuramente piacere e stupire chi non conosce magari il modo di raccontare dei fratelli Coen, o chi già lo conosce e gli piace e quindi vuole, diciamo, approfondire o allargare la visione. Chi invece è già andato al cinema a vedersi tutti i film dei Coen e non gliene è piaciuto uno, gli possiamo dire che non ci si stacca molto da questo, quindi non credo gli farà cambiare idea. Neanche ecco. La serie comunque è rinnovata per la seconda stagione, sì, però la prima viene conclusa così, quindi conclusa, la seconda sarà diversa. Serie antologica, quindi la seconda stagione sarà diversa, c'è già Kirsten Dunst che è stata scritturata per la seconda, e sarà sempre la stessa ambientazione, diciamo, quindi sempre inverno, sempre neve e probabilmente sempre strani omicidi e cose che succedono, però in un altro posto, lì vicino forse lì vicino. Ho un'ultima domanda, Diego. Vacanze di Natale, sai io cosa faccio? Mi faccio il cosiddetto binge watching, cioè mi guardo le serie complete. Io quest'anno voglio arrivare in pari, mi voglio aggiornare con Downton Abbey e con le mie commedie preferite, che sono Parks and Recreation e Two Broke Girls, cioè voglio sognare e divertirmi. Tu quale serie consigli per il binge watching? Ma diciamo che se volete stare al pari, diciamo, con le cose che tirano adesso, appunto c'è Fargo e c'è True Detective che si contendono tutti i premi di quest'anno, e poi diciamo, non lo so, le solite tipo Orange is the New Black, quelle che sono uscite come stagioni tutte insieme, no? Quelle, le cose che già in America sono uscite da 10 alla volta, per cui in qualche modo te lo consigliano. Sì. Fatelo le puoi guardare tutte insieme se sono usciti DVD oppure sui le varie piattaforme che abbiamo, abbiamo tante possibilità adesso, per cui guardate tutto in una volta, a maggior ragione se vi dicono di guardare tutto in una volta. Invece ti chiedo un'altra cosa, non diciamo come, ma una cosa invece che non è ancora arrivata in Italia, che o ti è piaciuta perché l'hai vista in anteprima o ti incuriosisce, qualcosa che ci consiglieresti? Guarda, io ho visto, la cosa che mi è piaciuta di più quest'estate è stata Halt and Catch Fire. Ed è una cosa con il protagonista è Lee Pace, non so come si pronuncia in inglese quando si va. Adesso di solito ne scrivo, andare in radio in difficoltà, che adesso è al cinema col Signore degli Anelli, lui fa uno degli elfi, ed è una serie, diciamo, probabilmente mutuata dalle vicende di Steve Jobs e di ambientata nei primi anni 80, senza nessun riferimento nei personaggi reali in quel senso lì, ma che parla di creazione di startup tecnologiche all'epoca, quando ancora sono anche lì 10-12 episodi, non è andata nemmeno troppo bene in America, ma io l'ho trovata eccezionale. Bello, chissà, adesso lo vediamo. Straordinario, non so. Devo ringraziare Diego Castelli, serialminds.com.